Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi, come sempre Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, già i nostri GR vi hanno raccontato di questa dell'iniziativa presa da Barack Obama, e quindi che molti hanno già definito il New Deal di Obama, ricordando quello che fu lo storico e fino adesso unico New Deal, quello di Roosevelt, che fece uscire l'America dalla recessione con investimenti enormi, massicci in infrastrutture, il famoso Tennessee Valley Authority Act, insomma addirittura non solo la rete ferroviaria, le dighe, ma si arrivò nel pieno della teoria keynesiana a sostenere che si poteva anche fare le buche e poi riempirle pur di far lavorare le persone. Questa è la ricetta con cui l'America storicamente uscì dalla grande recessione del 29. Ebbene, oggi, o meglio ieri notte, Barack Obama ha annunciato 241.000 chilometri di nuove strade, 6.400 chilometri di nuove ferrovie per stimolare l'economia, un pacchetto che vale qualcosa come 40 miliardi di euro. E chissà che molti dei sostenitori degli investimenti in infrastrutture anche in Europa, i cosiddetti il pacchetto dell'oro, come si chiamava una volta, non prendano spunto per tornare a suggerire all'Europa l'emissione anche di obbligazioni eurobond e comunque di un pacchetto di stimoli che serva a far ripartire l'economia e allo stesso tempo a dotare l'Europa di infrastrutture valide per tutti nell'area euro. Era, ripeto, il piano dell'oro di una volta, in cui si individuava in un pacchetto di investimenti infrastrutturali una leva da finanziarsi con i soldi di tutti gli europei, non solo del paese in cui queste infrastrutture passano. Dico però, per dovere di informazione, che su questo la Germania è sempre stata molto scettica, teme infatti che questo permetta ai paesi europei di fatto aumentare il deficit di bilancio, anche se facendoli passare sotto una voce europea. Comunque di questo parleremo, perché il piano è addirittura prevede anche 240 km di nuove piste di decollo degli aeroporti. Insomma, 40 miliardi di euro, per la precisione 50 miliardi di dollari. E parleremo anche del vertice Ecofin Eurogruppo, che dovrebbe essere in corso in questi minuti, dovrebbe iniziare la conferenza stampa del ministro Tremonti. Su questo anche dall'Europa sono arrivate diverse indicazioni, le racconteremo nella seconda ora del programma. Via libera comunque alla riforma della vigilanza finanziaria. Hanno approvato il compromesso raggiunto col Parlamento europeo. Dal gennaio 2011 saranno operative 3 nuove autorità europee su banche, assicurazioni e mercati. Nascerà anche lo European Systemic Risk Board, e cioè un comitato che dovrà vigilare e lanciare allarmi sui rischi per la stabilità nell'area euro. Di rischi, e quindi passiamo subito alla notizia in breve, si è occupato però anche il Wall Street Journal, che sostanzialmente ha detto che le banche europee, con gli stress test, cioè quei test che sono stati fatti 2 mesi fa per vedere come avrebbero reagito le banche europee in caso di situazione molto molto pesante nel settore finanziario, dei test che riprendono quelli che si fanno, non so, per i ponti, nell'ingegneria, si mette sotto stress il sistema, si vede come reagisce. Ebbene, il Wall Street Journal dice le banche europee hanno sottostimato il livello del debito. Questo ha avuto una ripercussione immediata sulle borse. Perché? Perché stanno perdendo tutte, Milano tra le peggiori, perché da noi pesano molto le banche, meno 1,6% il FTSE MIB, Parigi meno 1,3%, Francoforte meno 0,70%, Londra mezzo punto percentuale di calo, l'America comunque perde lo 0,81%, l'euro si è indebolito, è a quota 1,2703, vicino a 1,2609. Tra i titoli va bene solo Ansaldo STS, tra i maggiori titoli più 3,1%, invece male tutte le banche, come dicevamo, Azimut meno 2,70, Mediobanca pure, Monte dei Paschi meno 2,5, come Banco Popolare, la Popolare di Milano, Unicredito anche perde il 2,5%, Intesa San Paolo perde il 2,3%, il 2% lo perde Generali e anche UBI Banca. Di questo parleremo anche dei conti presentati oggi da Groupama, controllata italiana del gruppo francese Groupama, e anche delle prospettive di sviluppo. 349-238-6666 resta il numero per i vostri SMS. Parleremo anche di Federmeccanica, perché Federmeccanica sostanzialmente ha rotto gli accordi del 2008, ha disdetto il contratto del 2008, quello siglato il 20 gennaio del 2008. Federmeccanica riunisce le principali aziende del mondo metalmeccanico, perché lo ha fatto, poi lo sentiremo con la voce del presidente Pierluigi Ceccardi, a fronte delle minacciate azioni giudiziarie della FIOM relative all'applicazione di tale accordo. E quindi praticamente in via cautelativa hanno disdetto il contratto 2008 per i metalmeccanici. Dicevo, il numero per i vostri SMS 349-238-6666. Le altre notizie in breve. Vedo già una mail polemica. Siete una trasmissione economico-finanziaria, potreste ricordare ogni giorno da quanti giorni manca il ministro dello sviluppo economico? Lo fanno tutti i giorni e lo faranno tutti i giorni finché non arriverà i nostri GR. Lo stanno facendo alle 7 e alle 8 di mattina. Abbiamo dedicato numerose puntate a questo, l'abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti a Cernobbio. Adesso non sovrapponiamo le cose. E tra l'altro vi segnalo che i nostri GR ricordano ogni mattina anche da quanto manca il presidente della Consob. Andiamo avanti con le notizie. Le notizie che riguardano il mondo dei mercati vedono il petrolio in calo a 73,2 dollari al barile, mentre in Italia è confermato lo sciopero dei distributori per 3 giorni a partire dal 15 settembre, quindi 15, 16 e 17 settembre. Riguarda sia gli impianti di rete ordinaria che le aree di servizio autostradali, raccordi, le tangenziali cittadine. Il diario dell'uscita dalla crisi, lenta, difficile, vischiosa. Allora, la banca centrale giapponese, la Bank of Japan, ha lasciato i tassi di interesse invariati allo 0,1%, cioè allo zero, perché ritiene che siano ancora molto forti i rischi di un possibile rallentamento dell'economia giapponese. I tassi si tengono bassi quando l'economia va male, cioè si dà la possibilità di prendere in prestito denaro a costi bassi, bassissimi, per stimolare l'economia. Dicevo, questo è stato visto da molti operatori come un segnale molto forte di un timore di un aumento dei segnali per sulla frenata della ripresa giapponese. E non a caso, tra l'altro, il dollaro ha toccato un nuovo minimo da 15 anni sullo yen, praticamente è sprofondato a 83,54 yen. Non si può dire, come ricordavamo altrettanto, del rapporto euro-dollaro, visto che è l'euro che si è indebolito sul dollaro a 1,2706. Del Wall Street Journal, del suo esame, abbiamo già accennato, ha scritto un articolo molto critico sulle banche europee. Insomma, un esame più attento dei dati forniti dagli stress test applicati alle banche dimostra come alcune non hanno fornito un quadro così esaustivo delle proprie attività come invece avevano annunciato le autorità europee. Che cosa critica il quotidiano Wall Street Journal? Critica il fatto che alcune banche abbiano escluso determinati titoli di Stato, mentre altre hanno indicato l'ammontare netto dei titoli in portafoglio. Insomma, sono cose di carattere tecnico e contabile in qualche modo, però il dato di fondo è che secondo il Wall Street Journal in questo modo le esposizioni, quindi quanto denaro hanno prestato alcune banche europee, sono state ridotte di miliardi di euro. Per esempio Barclays avrebbe escluso i titoli di Stato che aveva in portafoglio a scopo di negoziazione. In questo modo, per farla breve, ha eliminato dal conteggio circa 5 miliardi di euro che ha impegnati in sterline e in obbligazioni in bot BTP italiani e altri 2 miliardi che ha in obbligazioni spagnole. Dopo questa dichiarazione, questo articolo del Wall Street Journal, ecco che sono aumentati gli spread, ossia quanto rende un titolo di Stato tedesco rispetto a quanto rendono altri titoli di Stato, di Irlanda, Grecia e Portogallo. Più rende un titolo di Stato, più è a rischio il paese, cioè più ti costa finanziarti il debito come Stato, quindi devi offrire rendimenti alti, più vuol dire che, o meno vuol dire che sei affidabile. Un po' come avviene per un privato cittadino, lo spieghiamo sempre, quando va in banca e chiede un prestito, a seconda dell'affidabilità che ha, gli viene concesso un prestito con diversi tassi di interesse. Allora, gli spread, la differenza è aumentata a un livello, per quello che riguarda l'Irlanda, a un livello mai toccato dalla creazione dell'euro, il 3,77% di differenza tra rendimento delle obbligazioni irlandesi e quelle tedesche. Sui mercati si torna a parlare di un rischio default, speriamo di no. Sotto tiro anche il debito portoghese al 3,5%, non risparmiati, beh, quello greco ormai siamo al 9,4%, siamo vicinissimi al record toccato all'apice della crisi di Atene. E comunque sono aumentati anche le differenze tra i titoli di Stato italiani, quelli tedeschi, e quelli spagnoli, quelli tedeschi. Nel caso specifico, i nostri BTP a 10 anni sono all'1,5%, rendono una differenza dell'1,53%, e quelli con i titoli spagnoli l'1,78%. E quindi 1,53% gli italiani, 1,78% quelli spagnoli, più alto rendimento, meno affidabile lo Stato, 3,5% la differenza con quelli portoghesi e appunto 3,7% con quelli irlandesi, e poi il 9,4% dei greci. Ancora il Ministero dell'Economia ha dato mandato a 3 banche internazionali per collocare un'emissione di titoli di Stato triennali in dollari nei prossimi giorni. Il lancio di questa obbligazione, le banche scelte per collocarlo sono Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Morgan Stanley. Il lancio di questa obbligazione avverrà nei prossimi giorni, quando le condizioni del mercato lo permetteranno. Giorgio Armani non ha comprato l'isola greca di Scorpios, lo ha detto oggi lo stesso stilista, riferendosi a quanto riportato oggi dalla TV greca, che ha citato molti media locali. Dicevano che Armani avrebbe pagato tra i 150 milioni e i 100 milioni di euro. Allora, molte le notizie oggi, partiamo subito col primo tema, il New Deal di Barack Obama. Le sue dichiarazioni e soprattutto cosa ne pensano diversi economisti, osservatori dell'America che abbiamo ascoltato e intervistato. This is a day of national consecration, and I am certain that on this day my fellow Americans expect that on my induction into the presidency, I will address them with a candor and a decision which the present situation of our people impels. This is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, frankly and boldly. Nor need we shrink from honestly facing conditions in our country today. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. Era Franklin Delano Roosevelt, un discorso mitico, storico, è un discorso che praticamente annunciava il piano enorme, il discorso del 4 marzo del 1933, che rivolgendosi agli americani diceva una frase che poi è entrata nel mito, oggettivamente l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa. Era il discorso di inaugurazione, discorso in cui Franklin Roosevelt, nel pieno della Grande Depressione americana, annunciava che in quel modo, con il New Deal tra l'America e i suoi governanti, tra l'America e i suoi corpi sociali, si sarebbe usciti dalla recessione. Poi noi sappiamo che l'America in realtà uscì veramente dalla recessione con la Seconda Guerra Mondiale, perché il livello del PIL americano tornò ai livelli del prima del 29 solo nel 43, ma fu quello il piano che portò al Tennessee Valley Authority Act, alla costruzione di dighe, di strade, e di far lavorare i lavoratori, anche, si diceva con una battuta, per fare una buca e poi riempirla il giorno dopo di terra per rifarla il giorno dopo. Alla base c'era un ragionamento che semplifichiamo in maniera un po' brutale dell'economista John Maynard Keynes, che diceva, insomma, piuttosto che avere le persone disoccupate, che entrare in questa spirale per cui i disoccupati non consumano e quindi consumando meno l'economia va ancora peggio e si entra in una spirale, in un vortice negativo, meglio imbarcare debito pubblico, debito statale, deficit, ma fare lavorare le persone, torneranno a consumare, l'economia uscirà dal circolo vizioso per entrare in un circolo virtuoso. Perché lo citiamo? Perché questo piano che Franklin Delano Roosevelt lanciò dal 1933 al 37, poi obiettivamente i suoi risultati li produsse, e oggi un altro presidente, e a distanza di 77 anni, ha lanciato un piano che ha chiamato il New Deal, si chiama Barack Obama chiaramente. Sentiamo come Barack Obama ha annunciato questo piano, che prevede 241.000 chilometri di strade, 6.400 chilometri di ferrovie per stimolare l'economia e anche 240 chilometri di nuovi aeroporti, in tutto 50 miliardi di dollari, quindi quasi 40 miliardi di euro nei prossimi 6 anni. Vi annuncio un nuovo piano per ricostruire e modernizzare le strade, le ferrovie e gli aeroporti americani. Voglio che l'America abbia le migliori infrastrutture del mondo. Le abbiamo sempre avute e possiamo averle ancora. E faremo in modo che ciò accada. Lotterò ogni singolo giorno, ogni singola ora, ogni singolo minuto per far girare questa economia, far tornare le persone al lavoro e rinnovare il sogno americano non solo per le vostre e le nostre famiglie, ma per le generazioni future. Ve lo garantisco. Nei prossimi 6 anni ricostruiremo 150.000 miglia di strade, una distanza che copre il giro del mondo 6 volte. Ammoderneremo 4.000 miglia di rete ferroviaria, abbastanza per andare da costa a costa. Realizzeremo 150 miglia di piste di decollo degli aeroporti. Adotteremo un sistema di controllo del traffico aereo di nuova generazione per ridurre i ritardi per i viaggiatori. E questo non è un punto che vogliono solo i democratici o i repubblicani. Tutti vogliono arrivare in orario a destinazione. Questo è un piano che si finanzierà da solo, senza aumentare il deficit statale. Lavoreremo con il Congresso per realizzare una banca per le infrastrutture che usi il denaro pubblico selezionando i migliori investimenti. Allora, questa è la parte, diciamo, di New Deal, anzi del New Deal, per quello che riguarda Barack Obama. Vedo già che però alcuni ascoltatori hanno colto nel segno, scrivendo al 349-238-6666. Hanno colto nel segno in maniera anche qui molto esplicita: Obama, non ci freghi più, basta debiti. E la domanda infatti è proprio questa, cioè ne abbiamo parlato lungo tutte queste settimane. A Jackson Hole 2 settimane fa si sono incontrati i vertici delle banche centrali mondiali, è uscito uno scenario molto diverso tra Europa e America. L'Europa vuole mettere sotto controllo il deficit e il debito, e ne parleremo più avanti, perché ritiene che è la mancanza, ossia la mancanza di fiducia, quella che porta a non investire, a non consumare. E se tu pensi che il tuo Stato non tenga botta sotto forma di obbligazioni, di rating, e dovrà fare nuove manovre finanziarie, non investi. L'America invece, per risolvere il problema dei consumi, dice no, occorre tornare a occupare, quindi ridurre i disoccupati, a costo anche di imbarcare deficit e debito. Due visioni completamente diverse per lo stesso obiettivo, fare ripartire i consumi, che sono la cosa che in questo momento è più al palo sia in Europa che negli Stati Uniti. Allora, abbiamo raccolto, grazie anche ai colleghi di Radio Cuore sulle 24 ore e alla nostra redazione, numerose dichiarazioni. Intanto però vorrei salutare e ringraziare il direttore del Harvard Business Review, Enrico Sasson. Buonasera, buonasera direttore. Allora, intanto una battuta, poi andiamo in pubblicità, sentiamo anche cosa ci ha dichiarato Gian Maria Grospietro, ma anche Massimo Ponzellini, Stefano Silvestri, Massimo Teodori, insomma, diverse dichiarazioni raccolte. Vorrei capire una cosa, secondo lei ha ragione chi scrive Obama non ci freghi più? Ma io sono sempre abbastanza scettico quando si tratta di essere troppo entusiasti o troppo poco, quindi non condividevo tanto gli entusiasmi a priori su Barack Obama 2 anni fa, quando tutti si aspettavano da lui dei veri e propri miracoli al momento delle elezioni, e condivido abbastanza poco le critiche che gli vengono rivolte adesso, che ingenerosamente non tengono spesso conto delle difficoltà che ha dovuto attraversare nei 2 anni, da 2008 al 2010, attraversati dalle difficoltà più grandi che chiunque abbia mai dovuto sostenere, sia sotto profilo economico che finanziario e politico. Quindi direi forse bisognerebbe avere una capacità di dare giudizi un pochino più equilibrati in ciascuna fase. Ecco, ma secondo lei è stato peggio, o meglio, è più rischioso spendere 50 miliardi di dollari per fare autostrade, ferrovie e aeroporti, o buttare, come ha fatto a suo tempo Paulson, 700 miliardi di dollari nel sistema finanziario per salvare le banche, che poi rapidamente sono tornate a fare utili e non mi sembra che abbiano cambiato atteggiamenti né sui bonus né sugli investimenti a alto rischio e altamente speculativi? La domanda, lo so che prevede la mia opinione, già si capisce, ma vorrei sapere la sua. Beh, insomma, 787 miliardi di dollari è una bella cifra, non c'era veramente molto altro da fare in quel momento se si voleva evitare la catastrofe, quindi il rischio era alto, però effettivamente il rischio poi ha ripagato almeno in una sua parte. Adesso non direi che proprio tutto quanto è andato bene, anche se qualche cosa è ritornato, no, dalla vendita delle azioni delle banche o delle società finanziarie. Sì, sì, no, quello è vero, che i soldi, le banche, d'affari più... alcune le hanno ritornate dal governo americano. Abbiamo visto però che Fannie Mae e Freddie Mac hanno ancora qualche problemuccio, per sì, cui non c'è dubbio, i problemi sono ancora colossali, c'è da chiedersi che cosa sarebbe successo senza tutto questo, così possiamo fare tante storie dei sé, se Lehman Brothers fosse stata salvata invece che lasciata affondare, ci sarebbe stata la crisi, eccetera. Beh, per quanto riguarda questi 50 miliardi il discorso è un pochino più lungo e quindi forse lo farei dopo la pubblicità, ma è sostanzialmente sì. Primo è solamente un pezzetto di un pacchetto che probabilmente domani annuncerà molto più ampio, e in questo caso riguarda solamente trasporti, ma ce ne saranno anche altri, si parla di telecomunicazioni, energia verde, energie rinnovabili, eccetera, e probabilmente Barack Obama ne parlerà domani. La seconda cosa è che i meccanismi di finanziamento di tutto questo saranno probabilmente abbastanza diversi da quelli precedenti, vale a dire si punterà essenzialmente su cose tipo il project financing, vale a dire si cercherà di far finanziare tutto quanto ai privati attraverso una banca delle infrastrutture di cui si sta già parlando al Congresso, quindi il meccanismo di finanziamento è centrale in tutta questa vicenda, non è semplicemente un trasferimento da parte dello Stato verso nuovi investimenti. Chiarissimo, è importante anche che questo non crei necessariamente in automatico deficit americano e quindi debito. L'America viaggia con un deficit vicino al 14%, perché insomma non ne ha certo bisogno. Ci risentiamo per le altre reazioni e commenti dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo che alcuni invece rimpiangono, invidiano l'America questo piano infrastrutturale che da noi, lo dico senza polemica, per il veto forte della Germania non si riesce a far decollare come piano europeo di investimenti infrastrutturali. Dopo il meteo continuiamo. ...17:38 minuti... concludiamo questo approfondimento sul New Deal lanciato da Barack Obama. I messaggi vanno benissimo, ce ne sono alcuni a favore, dicono beh, almeno loro investono, anche se imbarcano un po' di deficit, ma investono in infrastrutture. Altri invece molto critici, dicono attenzione, qualcuno deve pagare per questi soldi. Devo dire che il direttore della Harvard Business Review, Enrico Sasson, in collegamento con noi ha spiegato che molto di questo sarà anche project financing, cioè finanza di progetto, e quindi non soldi statali. Per carità, l'unica cosa a dire che il sottoscritto non capisce, non posso dire la parola, come Barack Obama, dico, grazie per l'esempio, siamo in due e di che livello. Invece vorrei sentire il commento di altri osservatori dell'America che abbiamo raggiunto. Nell'ordine, la nostra Cristina Carpinelli ha sentito sul piano di Obama Massimo Teodori e poi Stefano Silvestri. Sentiamo Teodori e Silvestri. Gli interventi di Roosevelt furono di portata straordinaria, nel senso che innanzitutto furono ribaltati per la prima volta dei canoni fondamentali della vita sociale-economica americana con l'intervento massiccio dello Stato che mai c'era stato prima, quindi una rivoluzione molto profonda. Per tornare a Obama, il suo intervento e le misure che lui ha annunziato certamente vanno nella stessa direzione, ma sono di una portata assolutamente minore rispetto a quelle rooseveltiane, perché non incidono nella legislazione di fondo e perché anche dal punto di vista quantitativo si parla di alcune centinaia di miliardi di intervento nei lavori pubblici, non possono essere paragonate agli interventi molto più radicali di Roosevelt. Io credo che, non so se funzionerà naturalmente, però mi sembra che è una ricetta classica e che come tale dovrebbe avere qualche effetto. Ecco, uno degli effetti che ci si aspetta ha a che fare con il voto mid term sicuramente. Questo è evidente. Obama sta in forte calo di consensi e quindi ci sono tutte le ragioni per cercare in qualche maniera di riconquistare, almeno sul piano dell'economia, il voto dei propri elettori. Io credo ci sia anche la volontà di distribuire questi interventi in maniera abbastanza ampia sul territorio, in maniera tale che non si concentrino soltanto nei centri finanziari, come sono stati i primi interventi per il salvataggio delle banche, questo tipo di operazioni essenzialmente finanziarie, le quali hanno avuto effetti immediatamente nei grandi centri finanziari, ma non sul largo pubblico. Un altro personaggio che conosce bene l'America, mi riferisco a Massimo Ponzellini, presidente di Impregilo e della Banca Popolare di Milano, l'ha raggiunto il collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Paolo Paronetto. Con grande interesse, con grande piacere, al di là del fatto che per l'economia americana è un forte rilancio, Impregilo è presente negli Stati Uniti con un'azienda molto importante che si chiama Ely, con cui in passato abbiamo partecipato e vinto anche a gare sulla metropolitana di New York e con cui attualmente siamo attivi in due stati americani con grosse operazioni, in particolare a Las Vegas. Pensiamo di partecipare alle gare, saremo agguerriti e speriamo proprio di aggiudicarci di qualcuno. E qualcosa del genere, di analogo, è pensabile anche in Italia, ovviamente su una nostra scala? Beh, in Italia ci sono già tante opere previste e deliberate dal CIPE, alcune sono un po' rallentate, voi dalla burocrazia, voi da qualche strozzatura finanziaria, ma certamente sono benvenute, sono previste, sostanziate, speriamo che accelerino il loro corso. Allora, Enrico Sasson, qual è il rischio? Perché di qualche rischio dobbiamo parlare, che lei vede, oppure insomma tutto bene dopo aver salvato, devo dire, l'ultima parte dell'amministrazione Bush e poi anche il primo anno di Obama, le banche con un costo enorme, si parla di 1.300-1.400 miliardi di euro, alcuni dei quali sono tornati. Qual è il rischio che lei vede in questo piano di Barack Obama? È tutto giusto? Cioè si parte dal salvataggio finanziario per poi andare allo stimolo all'economia? Beh, intanto se ne sa ancora veramente troppo poco e aspettiamo sicuramente domani per avere informazioni più ampie su quello che sarà il piano generale. Però detto questo, il rischio grosso è che effettivamente vada a ricadere sul deficit e sul debito pubblico americano, che sono già ambedue estremamente elevati. Però ribadisco, questo rischio è estremamente presente e sono tutti molto consapevoli, da Barack Obama fino ai membri del Congresso. In questo momento ci sono già allo studio delle proposte di legge, ma soprattutto di democratici che stanno proponendo quella che prima avevo definito la banca delle infrastrutture, vale a dire una banca che attiri investimenti di privati e che solamente in via accessoria utilizzerebbe denaro pubblico del tesoro, sarebbe inserita nel meccanismo del Department of Treasury e di conseguenza all'interno del Dipartimento del Tesoro, ma sarebbe una banca che funzionerebbe con il meccanismo del finanziamento attraverso gli investimenti dei privati, che si aspetterebbero naturalmente un ritorno da questo investimento, il che vorrebbe dire che se si fanno strade, autostrade, ponti e quant'altro, il meccanismo dovrebbe essere quello di avere un ritorno attraverso i pedaggi, certo. Tutte queste cose, insomma. Quindi in una battuta però, quanto pesano le elezioni di midterm? Perché molti ascoltatori scrivono adesso Obama ha il giro di boa delle elezioni di midterm, e su questo, questo diciamo, è frutto così della paura di perdere, di andare sotto, per cui hai una certezza in queste elezioni. Tanto poco oppure un progetto di più lungo respiro? Beh, naturalmente come l'andamento delle elezioni militari condizionerà poi fra due anni le elezioni generali presidenziali, quindi è essenziale capire come andranno, e i democratici hanno veramente molta, molta preoccupazione, perché ciò che determinerà il voto a novembre sarà essenzialmente la situazione economica e quella occupazionale, il che spiega peraltro perché proprio oggi, voglio dire, si fanno queste proposte che vanno a incidere essenzialmente come obiettivo sulla possibilità a breve di creare occupazione e a lungo termine di restituire competitività e produttività all'America attraverso migliori infrastrutture, che Barack Obama ha richiamato con molto orgoglio come quelle che una volta erano le migliori del mondo, invece oggi fanno parecchia acqua. Grazie al direttore della Harvard Business Review, Enrico Sasson. Adesso c'è il traffico, poi la borsa che chiude con un meno 1,3%, Milano la peggiore, male i bancari dopo l'allarme lanciato dal Wall Street Journal, 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, molta America oggi, non solo per il piano Obama, ma anche per il Wall Street Journal, come ricordavamo, che ha gelato le borse europee e gelato soprattutto i titoli bancari, perché ha detto attenzione, gli stress test che avete fatto in Europa per verificare la tenuta delle banche europee nel caso di grossa crisi sono stati fatti un po' taroccati, adesso taroccati chiaramente lo dico io, cito due casi, un caso di Barclays Bank che non avrebbe calcolato alcuni investimenti in obbligazioni italiane e non solo italiane, anche spagnole. E poi, insomma, sostanzialmente l'accusa è che le banche europee, Barclays, Crédit Agricole, sono state un po' troppo così, di manica larga nel dire quanto erano indebitate e quante obbligazioni avevano sottoscritto. Risultato, meno 1,3% Milano, che è la peggiore, ma soprattutto Unicredito meno 2,5%, Mediobanca meno 2,3%, come il Banco Popolare, meno 2,2% la Popolare di Milano, meno 2,1% il Monte dei Paschi, meno 2% Intesa San Paolo, come UbiBanca. E ancora continuiamo con i titoli finanziari, Azimut la peggiore, meno 2,6%. Non c'è molto altro da aggiungere, infatti non lo chiederò ai colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Ti chiederò invece di Fiat, perché ha perso il 2,5%. Sì, allora Fiat, così come l'azionista di riferimento Exor, hanno chiuso la seduta in forte calo e hanno mostrato un andamento peggiore rispetto al comparto auto, che in Europa è arretrato dello 0,5%. Allora, a contribuire al ribasso del titolo sono stati alcuni giudizi da parte degli esperti. Secondo gli esperti del settore, infatti, il lingotto, quindi il titolo Fiat, è il titolo con il minore potenziale di rialzo in tutto il comparto auto europeo, in particolare per due ragioni. Da una parte la battaglia sindacale, che non è positiva nel breve periodo in termini di visibilità per Fiat, e dall'altra la quota di mercato che continuerà a scendere in Europa e in Italia. Le attese in particolare sono per un decremento dell'11% nel 2010 in Italia, che rappresenta il 36% delle vendite di auto del lingotto, del gruppo torinese. Eh sì, gli ultimi dati andavano purtroppo in questa direzione. Parliamo anche di qualche titolo che però in una giornata difficile per le borse europee ben si è mosso, Ansaldo STS più 3,3%, anche Fondiaria guadagna 0,5 punto percentuale. Sì, allora per quanto riguarda al saldo il mercato scommette che la società sarà in grado di aggiudicarsi varie commesse negli Stati Uniti proprio dopo l'annuncio del nuovo piano di infrastrutture arrivato ieri da parte del presidente Obama. Le azioni avevano già guadagnato molto la scorsa settimana, sempre in attesa di nuovi sviluppi, questa volta in Libia dopo la visita di Gheddafi in Italia. Per quanto riguarda Fonsai, che ha chiuso a più 0,51%, allora le azioni hanno beneficiato le indiscrezioni stampa relative agli sviluppi futuri per la controllata ATA Hotels. Infatti oggi Repubblica ha riportato che Unicredit starebbe studiando il possibile ingresso in un nuovo polo alberghiero che coinvolgerebbe ATA Hotel e una Hotel. Questa è una buona notizia secondo gli operatori, anche perché Fonsai ha rilevato ATA Hotel nel 2000 e ha rilevato ATA sì, Hotel. Sì, non vanno così bene. Infatti ha rilevato appunto ATA Hotel per 20 milioni e la società nel semestre ha già mostrato una perdita di 18 sì. milioni di euro. Sì, ancora sono i titoli tra quelli più sottili, oltre agli altri cali, per carità li diamo tutti, sennò poi gli ascoltatori si lamentano, anche Exor per del 2,2, Impregilo ha perso l'1,80 come Bulgari, le generali di 1,70 come Mediaset, Simacroelectronics 1,5% di calo, poi l'1,3% è il calo di Buzzi Unice e Medi Saipem, l'1,2% quello di Cire Unipol, l'1,1% quello di Italcementi e Pirelli, e poi qui ci fermiamo. Dicevo, tra i titoli più sottili invece Dada più 10%, un déjà vu di New Economy, Cadet più 8,5%, Premuda più 5%, male invece Kerself meno 7,5%, investimento e sviluppo meno 9,90%, Dada. Allora, le azioni hanno beneficiato ancora delle indiscrezioni stampa uscite nel weekend relativo a un possibile delisting del titolo. Questa mattina infatti la controllante RCS non ha in realtà smentito tali voci, ma ha spiegato che possibili opzioni di valorizzazione della società, quindi di Dada, sono a uno studio assolutamente preliminare e non è stata definita alcuna proposta o decisione su ipotesi di delisting, però il mercato ci crede, basta vedere infatti la performance del titolo. E ancora volete sapere di altri titoli di Kerself? L'ho detta, Meride meno 5,70, Lidata meno 5%. Grazie, Livia Zancaner, Radio Cori sulle 24 ore. Torneremo poi a parlare di finanze perché abbiamo un'intervista con il neo amministratore legato di Groupama, chiaramente la controllata italiana. Adesso però una notizia che è arrivata da poco in redazione, l'abbiamo data in apertura, la rottura del direttivo di Federmeccanica, cioè il recesso del contratto nazionale siglato il 20 gennaio 2008. Che cosa è successo? Poco tempo fa, circa un'ora e mezza fa, si è saputo che il direttivo di Federmeccanica ha dato mandato al suo presidente Ceccardi di comunicare il recesso dal contratto firmato il 20 gennaio 2008. Federmeccanica raggruppa le principali aziende italiane nel settore della metalmeccanica e il contratto chiaramente riguarda dal punto di vista dell'industria manifatturiera il contratto più importante che c'è. Sentiamo come ha spiegato al microfono la nostra Loredana Marchesi, lo stesso Pierluigi Ceccardi, il motivo di questa rottura, di questa scissione del contratto. È emerso il convincimento unanime che è necessario proseguire con determinazione l'adeguamento delle relazioni industriali, sindacali e contrattuali alla domanda di maggiore affidabilità e flessibilità che proviene dalle imprese per consentire loro una migliore tenuta rispetto all'urto della competizione globale. A questo scopo, il Consiglio direttivo ha dato mandato alla delegazione incaricata delle trattative di proseguire nel lavoro di armonizzazione e adeguamento del contratto nazionale ai principi dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009, con particolare attenzione alla possibilità di definire intese modificative del contratto nazionale per il governo delle situazioni di crisi e per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio e agli istituti e procedere per la sanzionabilità degli inadempimenti contrattuali. È stato altresì dato incarico a un'apposita commissione di attivare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali al fine di definire norme specifiche per il comparto dell'auto in armonia con quanto previsto in calce al vigente campo di applicazione del contratto. E torneremo a parlarne anche dopo il GR perché si tratta di 1 milione di lavoratori. Ceccardi ha precisato che non è arrivata nessuna spinta da Fiat. L'accelerazione imposta oggi per tutelare le esigenze delle aziende metalmeccaniche, ma insomma si rimette tutto in discussione, anche le nuove regole per la rappresentanza. Dopo il GR torniamo su questo e poi anche il vertice Ecofin e il Gruppama 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo allora l'approfondimento su questa decisione, devo dire a sorpresa, che come scrivono anche molti ascoltatori al 349-238-6666 è con ogni probabilità destinata a cambiare anche le relazioni industriali, cioè il rapporto datore di lavoro, sindacati, e mi riferisco a Federmeccanica, per chi si fosse appena messo in collegamento. Oggi il direttivo, che si è riunito a Milano, ha deciso di dare mandato per il recesso, insomma di chiedere il recesso del contratto nazionale siglato lo scorso 20 gennaio 2008. Questo per cautelarsi di fronte alle minacciate azioni giudiziarie della FIOM relative alle applicazioni di tale accordo. Non sfugge a nessuno che in mezzo c'è anche la vicenda Fiat. La Fiat infatti aveva annunciato per voce di Sergio Marchionne che poteva anche uscire dall'accordo Federmeccanica per riuscire poi ad avere gli accordi che interessano la Fiat a Pomigliano, ma non solo. Alcuni scrivono che questa è la conseguenza della minaccia o annuncio della Fiat che sarebbe uscita, diciamo, dall'accordo collettivo, l'accordo quadro nazionale dei metalmeccanici. Nega che vi sia stata una spinta, una pressione della Fiat. Invece il presidente di Federmeccanica Pierluigi Ceccardi, ricordo che in ballo c'è il contratto per oltre 1 milione di lavoratori. Sentiamo Ceccardi. Questa accelerazione è arrivata perché è un'esigenza delle aziende metalmeccaniche, perché l'esigenza è di ritornare a essere competitivi per combattere su un mercato globalizzato. Non è solo Fiat, ma è di tutte le 12.000 aziende metalmeccaniche nostre associate. E questo a tutela di 1 milione di lavoratori delle aziende metalmeccaniche nostre associate. Così il presidente Ceccardi. È indubbio però, voglio dire, che sicuramente non saranno arrivate pressioni della Fiat, ma il contesto è quello messo in luce e in evidenza dal così dialettica, scontro Fiat-Fiom, Pomigliano, ma non solo. E infatti Federmeccanica comunque chiede nuove regole per la rappresentanza, questa nuova regolamentazione è prevista dall'accordo interconfederale del 15 aprile 2009, quello non sottoscritto dalla CGIL. E lo stesso Ceccardi, al microfono di Loredana Marchesi, dell'agenzia di stampa Radio Coro, Il Sole 24 Ore, che ha comunque raccolto queste interviste per noi, dice di auspicarsi comunque un cambiamento complessivo delle relazioni industriali. Sentiamo sempre Ceccardi. Dobbiamo cambiare le relazioni sindacali, dobbiamo portare le relazioni sindacali su una maniera diversa. Non possiamo continuare ad assistere le nostre aziende che non sono più governabili, dove 5 persone che sciopero, dico 5 per dire 55, fanno chiudere uno stabilimento di 500. Questo non vale più, no, questa non è la regola della democrazia, questa è prevaricazione. Dobbiamo ritornare a rigovernare le aziende e riportarle efficienti. Se le riportiamo efficienti non perdiamo più posti di lavoro, ne abbiamo già persi abbastanza, mi creda. E insomma, destinata a suscitare numerose reazioni. Domani mattina si occuperà Oscar Giannino del tema. Cambia tutto, la crisi, come era immaginabile, porta anche la crisi, in questo caso occupazionale, porta anche a rivedere le posizioni e gli accordi presi prima. Sicuramente, ripeto, anche chi scrive, la vicenda Fiat un peso l'ha giocato, anche se non sono arrivate pressioni nette, ma insomma un peso l'ha giocato. Quello è stato il casus. Vabbè, cambiamo tema, perché oggi approvata la semestra di Groupama Assicurazioni, ma soprattutto nominato il nuovo amministratore delegato Christophe Buso. Per commentare i dati diffusi oggi, le strategie del gruppo, siamo allora in collegamento con il neo amministratore delegato Christophe Buso. Buonasera. Buonasera. Allora, in bocca al lupo, visto che lei prende appunto il posto di Pierre Lefebvre, che sarà poi direttore generale internazionale del gruppo. Il gruppo AMA Assicurazioni, che è la filiale italiana del gruppo assicurativo francese Gruppo AMA, che è praticamente a livello europeo, è il sesto assicuratore in Francia e il quindicesimo a livello europeo, ha un giro d'affari a livello complessivo di 17 miliardi e mezzo, 16 milioni di clienti, 40 mila dipendenti. In Italia invece è ancora in fase di crescita, 1 miliardo e 400 milioni il giro d'affari e oltre 1000 agenti e 1 milione e 700 mila clienti. Voi tra l'altro come Gruppo AMA Holding siete anche nell'azionariato di Mediobanca con una quota complessiva del 4,86%. Allora, i conti che voi avete approvato oggi vedono una forte crescita del fatturato, se ho ben capito, superiore all'andamento del mercato. Può raccontarmeli? Sì, siamo molto contenti di questo risultato che fa parte dei nostri piani, ma è vero che avere una forte crescita della raccolta premi al di là del mercato per noi era veramente l'obiettivo principale. E la buona performance si fa sul comparto danni, con un fatturato che è in crescita di 5%, ma anche sul ramo vita, con un fatturato che è in crescita di più di 17%. Ecco, com'è che avete ottenuto risultati superiori alla media, secondo lei? Non mi dica che perché siete bravi. No, perché abbiamo lavorato, abbiamo lavorato molto, perché abbiamo investito anche nell'azienda da 2-3 anni, con un'integrazione che era molto impegnativa, ma che dà oggi risultati, perché i nostri agenti hanno lavorato bene, anche con una gamma di prodotti che adesso è molto più competitiva, aperta, anche con una possibilità di assunzione più forte. State facendo assunzioni, no? Perché in questo periodo è una notizia di rilievo. Scusi, avete in previsione assunzioni? Assunzioni di? Assunzioni di dipendenti? No, non per il momento, la nostra crescita si fa con nello stesso tempo un miglioramento dei processi, della produttività, perché abbiamo lavorato anche sull'IT e sull'organizzazione dell'azienda, quindi si fa così. Allora, io ho detto che voi siete in qualche modo una startup, nel senso che siete nati nel novembre del 2009 dalla fusione tra l'attività di Gruppo AMA Italia e Nuova Tirrenia. In realtà già il gruppo era presente in Italia, però se ho ben capito, voi avete un obiettivo molto ambizioso, cioè volete diventare una delle principali compagnie del mercato italiano entro il 2012. Noi ve lo auguriamo, come lo auguriamo a tutti gli ospiti, ma siccome la strada, insomma, viste le vostre dimensioni, è ancora lunga, come pensate di fare? Vabbè, aumentando i clienti, ma anche con acquisizioni? Abbiamo obiettivi di sviluppo che sono chiari. È vero che la crescita organica fa parte dell'obiettivo e si vede che possiamo farla. Abbiamo anche sempre detto che il mercato italiano era per noi un mercato molto importante, che il gruppo guarda come un mercato molto importante a livello del gruppo, quindi con la possibilità di valutare tutte le opportunità che il mercato darà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi l'obiettivo si farà con queste possibilità. Ma anche, voglio dire, fare shopping. Vediamo che in questo periodo, complice anche la crisi, molti grandi gruppi stanno facendo acquisizioni, lanciano offerte. Insomma, i prezzi sono buoni, non solo nel mercato immobiliare. Fa parte delle possibilità, è vero. Non è un'informazione da ieri, ma è sempre vero. Quindi anche con acquisizioni. Se le dicessi Fondiaria SAI, su cui voi avevate mostrato un interesse nel passato, c'è ancora? Non farò commenti su questo, neanche su altre possibilità. Tutto si valuta. Ok, per cui anche Fondiaria SAI, volendo, si può valutare, diciamo. O no? Tutto si valuta, tutto si vede. Tutto si vedrà, quindi non mi vuole dire né sì né no. Però insomma, è le dimensioni, diciamo, non Fondiaria, ma le dimensioni sono quelle che interesserebbero a voi come gruppo? Come l'ho detto, senza commento. vedo che ha già imparato bene a dialogare con la stampa italiana, complimenti. Le auguro in bocca al lupo a lei e a tutto il gruppo. Grazie quindi a Christophe Buseau, amministratore delegato di, da oggi, nominato di Groupama Assicurazioni. Grazie, buonasera. E adesso traffico leggermente in ritardo, poi l'ultima parte, sta parlando il ministro Tremonti in conferenza stampa dopo il vertice che si è tenuto oggi a Bruxelles. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, ultima parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora, oggi doppio appuntamento, anzi triplo appuntamento in Europa, c'è stato il vertice dell'Eurogruppo, poi il vertice Ecofin, ma soprattutto questa mattina c'è stato il primo discorso sullo Stato dell'Unione, un po' come avviene negli Stati Uniti, quando il Presidente fa il discorso sullo Stato dell'Unione, in questo caso l'Unione Europea, e lo ha tenuto il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso. Alcuni hanno fatto notare che, mentre in America poi l'Unione è effettiva, politiche monetarie, politiche fiscali e stanziamenti, qui l'Unione è solo monetaria, poi sulle politiche di bilancio e sulle scelte diciamo di politica economica i vari paesi, non parliamo poi di altre politiche, vanno ognuno per conto suo. Comunque, sentiamo il primo discorso del Presidente della Commissione Europea Barroso, discorso sullo Stato dell'Unione, in cui l'appello e diciamo riferimento alla Germania era abbastanza esplicito. L'appello è a tenere l'Europa assieme, a nuotare tutti assieme. Sappiamo che c'è una Germania che nuota come la Pellegrini e poi il resto dei paesi che invece nuotano con un po' più di difficoltà, mettiamola così, alcuni anche con grosse difficoltà. Il timore è che la Germania faccia una fuga in avanti, in sostanza pensando ai suoi interessi come nazione, non come membro europeo. Sentiamo Barroso. Over the last year, the economic and financial crisis... Nel corso dell'ultimo anno, la crisi economica e finanziaria ha posto l'Unione Europea di fronte a una delle sfide più importanti di sempre. Il fattore della nostra interdipendenza è stato messo in evidenza e la solidarietà è stata messa alla prova come mai prima. E se guardo a come abbiamo reagito, credo di poter dire che abbiamo superato la prova. Abbiamo fornito molte delle risposte che c'erano state richieste in tema di aiuti finanziari a Stati membri che stavano affrontando situazioni eccezionali. Risposte sulla governance economica, sulla regolamentazione finanziaria, sulla crescita e sul mercato del lavoro. E abbiamo poggiato anche le fondamenta su cui ammodernare la nostra economia. L'Europa ha dimostrato di stare in piedi da sola e chi aveva previsto il crollo dell'Unione Europea ha avuto torto. The demise of the European Union were proved wrong. E poi sempre il Presidente della Commissione Europea ha detto: attenzione, permangono rischi sulla crescita in Europa, si è fermato l'aumento dei disoccupati, quindi la disoccupazione ha smesso di crescere, ma ancora restano rischi forti, troppi rischi forti e troppi disoccupati, per quanto Barroso abbia ricordato come la ripresa stia guadagnando slancio. Ha anche annunciato che l'Europa proporrà delle tasse sulle attività finanziarie e ha rilanciato, e qui ci colleghiamo con l'apertura, ha rilanciato quello che è il piano Obama per le infrastrutture anche a livello europeo. Ha detto: proporremo un eurobond, un'emissione di obbligazioni per realizzare le infrastrutture in Europa. Sentiamo questo altro passaggio di Barroso. Le prospettive economiche dell'Unione Europea sono oggi migliori rispetto a un anno fa e la ripresa sta guadagnando slancio, anche se con un passo non omogeneo tra le varie regioni dell'Unione. La crescita quest'anno sarà più alta di quanto inizialmente previsto e il livello di disoccupazione, anche se ancora elevato, ha smesso di aumentare. Chiaramente, incertezze e rischi permangono, e non solo all'interno dell'Unione Europea. Ma non dobbiamo farci illusioni. Il nostro lavoro non è affatto finito e non c'è spazio per l'autocompiacimento. Il problema della disoccupazione, per esempio, è estremamente importante. Ora bisogna puntare alle riforme strutturali, senza le quali non riusciremo a creare una crescita sostenibile. Dobbiamo utilizzare i prossimi 12 mesi per accelerare l'agenda di riforme. È giunto il momento di modernizzare la nostra economia sociale e di mercato in modo che possa competere a livello globale e rispondere alle sfide demografiche. E va precisato che, come Barroso ha detto, vorremmo lanciare delle obbligazioni per fare gli investimenti, il ponte sullo Stretto, le autostrade, le ferrovie, quello che oggi Barack Obama ha annunciato, 50 miliardi solo di ferrovie e autostrade Nei prossimi 6 anni subito è arrivato il veto tedesco. La Germania non ne vuole sapere delle obbligazioni europee. Ha detto l'idea è irrealistica. Ultimi 2 lanci d'agenzia appena arrivati. Tremonti, ministro dell'economia italiano Tremonti, che è in conferenza stampa, ha detto non c'è nessuna preoccupazione in Europa per l'Italia. L'Italia è un paese più serio di quanto si immagini e non vi sarà un autunno di emergenza. Lo dico perché oggi le borse hanno perso l'1,3% a Milano sui timori lanciati dal Wall Street Journal questa mattina che gli stress test effettuati sulle banche europee in realtà fossero un po' troppo benevoli. Molte banche, Barclays, Credit Agricole e altre, avrebbero nascosto alcuni, per dirla così, alcuni rischi presi in investimenti obbligazionari su vari paesi a rischio. E infatti il rendimento delle obbligazioni spagnole, irlandesi e portoghesi è subito schizzato verso l'alto e questo segnala un mercato che vede più a rischio il debito di questi paesi. Però rassicuranti per ora le prime indicazioni arrivate dal ministro Tremonti. Giuseppe Cruciani è qui come ogni sera accanto a me. Insomma, la battuta mi viene facile, ti giro anche quelli che sono i commenti di molti ascoltatori al 349-238-6666. Di là dall'oceano, piaccia o non piaccia, condiviso o non condiviso, c'è un presidente americano che lancia un piano che domani continuerà a illustrare di almeno 50 miliardi di dollari sulle infrastrutture. E da noi in Europa si ragiona dei veti tedeschi, in Italia mi sembra che il tema sia tutto Berlusconi-Bossi sulla presa di posizione di Fini, cioè prospettive, se mi passi la battuta, un po' diverse sul futuro. Beh, oggi c'è stata questa mossa di Berlusconi e Bossi che hanno annunciato nella notte dopo il vertice di Arcore che saliranno al Quirinale. Bossi ha usato un'espressione un po' particolare per cercare di spostare Fini dalla presidenza della Camera. Adesso il termine spostare è bizzarro in politica, soprattutto quando si tratta di cariche istituzionali, ma di questo e altro ci occuperemo fra poco alla Zanzara. E questi sono i problemi che ogni paese ha i problemi che si merita e noi abbiamo questi, non le infrastrutture. Va bene, è tutto da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.